Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Fu il primo italiano a diventare campione d'Europa dei pesi massimi. Basterebbe questo a scrivere di diritto Erminio Spalla, detto Occhio Vivo, classe 1897, nato a Borgo San Martino di Casale Monferrato, tra i grandi del nostro pugilato. Ma Spalla fu straordinario boxer, certo, ma anche altro e molto altro. Scultore, pittore, scrittore, cantante, attore. Durante una vita, conclusasi nel 1971, spesa tra Italia e Sud America, da giramondo e avventuriero, animato da coraggio, spavalderia e bonomia. Il pugile rinascimentale veniva soprannominato dai suoi contemporanei, proprio per la sua vita picaresca e la molteplicità dei suoi talenti. E proprio a Erminio Spalla, allora, in occasione dei 100 anni della Federazione Pugilistica Italiana, vogliamo dedicare la puntata di oggi di Olimpia. Ad accompagnarci a scoprire questo campione eclettico e straordinario, un decano del giornalismo sportivo e della boxe in particolare, autore dell'ebook Pugni su Pugni, edito da Wanda e-Publishing. Riccardo Signori, grazie per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Buonasera a tutti. Allora Riccardo, ma che fenomeno è stato Erminio Spalla? Erminio Spalla è stato sicuramente un pugile che, se ci fosse oggi, avrebbe fatto successo non solo come pugile ma anche come personaggio, come uomo spot per la boss, come tipo stravagante, forse anche al di fuori di quella che è questa nostra epoca, ma anche che sicuramente nella sua epoca è stato importante e ha vissuto in maniera totale, nel senso che è stato un pugile bravo, grande, ha saputo vincere appunto il campionato europeo dei pesi massimi, primo italiano, ma poi è stato fantastico anche in tutto quello che non è stato a box, perché lui è stato scrittore, è stato scultore, è stato cantante, insomma di tutto un po'. Dal punto di vista tecnico, ecco, che pugile era? Beh, era un pugile che conosceva l'arte del pugilato in tutti i sensi, e quindi sapeva fare male, ma sapeva anche mostrare la sua abilità tecnica. Non era poi un pugile di come ho detto, più o meno pesava tra gli 84 e gli 88 kg, era alto 1,84 m, quindi era un peso massimo non gigantesco, però era ben strutturato. Tra l'altro fu campione italiano della categoria dal 1920 al 27 e fu campione europeo dal 1923 al 1926. Non vinse per KO numerosi match, però ne vinse un buon numero, ne perse anche, ne pareggiò alcuni, tipo con Humbecker a Milano in 20 round, perché allora si poteva combattere anche molto più oltre i famosi 15 round. Per esempio con Van de Veer fu, infatti il match era sui 20 round. Primo italiano a diventare campione europeo dei pesi massimi, come ricordavamo. Ecco, parlaci un po' di quel match leggendario con Van de Veer all'Arena di Milano. Nel 1923, il 20 maggio, conquistò all'Arena il titolo di campione europeo e Milano si fermò praticamente, e i cannoni del Castello Sforzesco annunciarono la sua vittoria, nel senso che era stato stabilito per coloro che non poterono andare a vedere il match direttamente all'Arena, c'erano 30.000 persone circa quel giorno all'Arena, che se Erminio Spalla avesse perso, il colpo di cannone sarebbe stato unico. Se avesse pareggiato sarebbero stati due, se avesse vinto sarebbero stati tre. E così fu, tant'è vero che la gente rimase per qualche attimo con il fiato sospeso ad ascoltare i colpi di cannone, e finalmente quando furono tre fu chiaro a tutti che era arrivato il titolo europeo, e anche i trans si fermarono. Un successo su cui il regime fascista si tuffò a pesce, come si suol dire. Il duce non mancò l'occasione di mettere il cappello sul trionfo del nostro campione. Mussolini, quando Erminio Spalla andò a combattere per il titolo europeo, gli mandò un telegramma scrivendogli: bisogna vincere per l'Italia, per il fascismo e per te, alala. E Erminio Spalla cosa disse una volta conquistato il titolo? Le parole del duce furono per me come la diana della battaglia. Salì sul ring con la sicurezza della vittoria. Questo l'ha scritto anche in un suo libro, che è un libro delizioso, che si intitolava Per le strade del mondo, nelle quali uno riconosce anche l'intelligenza di Erminio Spalla, perché leggendolo lo trova così brillante, così pieno di notazioni, così caratterizzato e caratterizzante, che dice quando la gente parla dei pugili che ci hanno magari, che so, li pensano suonati, ecco, se uno legge queste cose dice beh, questo non è certo un pugile suonato, ma uno che aveva una bella testa. Se Primo Carnera fu campione del mondo, Erminio Spalla fu campione nel mondo, scrivi nel tuo libro. Sì, perché Spalla combatté e visse anche nel Nord e nel Sud America. Epici i suoi match con il Toro della Pampa, l'argentino Firpo. Contro Luis Angel Firpo Spalla fece due combattimenti e entrambe le volte perse, però fece vedere quanto era bravo, tant'è vero che anche Firpo, insomma, ne restò sbalordito. E addirittura Spalla era uno che girava il mondo parlando il dialetto milanese, che insomma effettivamente è una cosa abbastanza unica e rara. E in quel match, se non fosse stato che si trovava davanti a uno che picchiava e aveva dei pugni come martelli, e a quale lui sapeva opporre, fra l'altro, oltre alla sua bontà pugilistica, anche la sua abilità tecnica e il suo pugno nemmeno troppo morbido, Spalla cercava addirittura di, come dire, fece il casus clay a modo suo, perché a un certo punto, quando sentì un colpo di Luis Angel Firpo, disse usted no es un toro ma es una vacca, e quell'altro non è che capiva molto, però qualcosa intuiva e si arrabbiava anche di più, e quando poi si infuriò davvero e tirò fuori un pugno di quelli che facevano male, a Spalla a un certo punto disse proprio in dialetto: ehi Parpagnat, ma tu sei matto? Ma te sei matto? Come dire, ma sei matto Parpagnano? Parpagnano era un modo tipico dialettale per dire a uno, per dargli a uno un modo simpatico per appellarlo. Leggendaria rimane ancora oggi la decima ripresa del primo match fra i due. Nella decima ripresa Spalla colpì con un gancio Firpo e lo fece crollare a terra. L'arbitro contò almeno fino a 17 a occhio e croce, non certo fino a 10, perché fino a 10 Firpo sarebbe rimasto ancora giù. Firpo si rialzò faticosamente, lentamente, ma si rialzò, e alla 14ª ripresa sparò il suo destro, e stavolta Spalla se lo prese in pieno, e il conto dell'arbitro fu stranamente veloce e Spalla perse il combattimento. Altro incrocio indimenticabile, quello con l'americano Tunney, vero Riccardo? Anche lì, se ricordo bene, arbitro e giuria ebbero la loro parte nel KO del nostro campione. Quando lui combatté con Gene Tunney, che era un maestro del ring e diventò poi campione del mondo dei pesi massimi, lui dimostrò appunto questa sua bravura, perché per 6 round costrinse Tunney a corrergli dietro attraverso il ring, e riuscì a evitare i colpi di Tunney. Poi alla fine Tunney riuscì con un colpo che riuscì a disfarsi di Spalla, con un colpo che venne definito quasi di lotta libera. L'arbitro squalificò Spalla. E a Barcellona contro Paulino Ozcudum? Ti ricordi come andò a finire? Dai, raccontacela, dai. Spalla si trovò praticamente in un'arena nella Plaza Monumentale a Barcellona, un uomo solo contro tutti, già tradito forse nel fisico e nella salute. Per 6 round dimostrò a Ozcudum come si fa la box, quindi insomma la maestro quale sapeva di essere, ma poi dovete mollare, insomma, perché anche per lui cominciava a essere il momento dell'orizzonte che si avvicinava. Tra l'altro la giuria non fu particolarmente benevola, perché Spalla con un destro fece anche piegare le ginocchia a Ozcudum. Poi quando tornò in Italia Spalla si ammalò di itterizia, ebbe delle difficoltà a guarire, riprovò ad andare sul ring, ma insomma era la sua, come dire, il suo campanello era suonato. Mani di pietra sul ring, gigante buono nella carriera di attore invece, una delle sue grandi passioni artistiche. Era totalmente diverso da quello che invece era sul ring. Nel ring prendeva pugni gli uomini, in questi film solitamente era uno che proteggeva le creature, che fossero poveri o tremanti o fronelli o chissà chi volete voi. Ebbe la parte di Vitale nel film Senza Famiglia, poi fece Scalabrino nel Ponte dei Sospiri. Comunque insomma è stato un personaggio che nel cinema ha ricoperto un ruolo diverso da quello che invece ha ricoperto quando era sul ring. Ecco, risaliamo per un istante tra le 12 corde di quel quadrato magico. Qual è, Riccardo, l'eredità che Erminio Spalla ha lasciato nella storia del nostro pugilato? È sicuramente stato uno dei migliori peso massimi assoluti della nostra box, perché dal punto di vista della capacità pugilistica nettamente superiore a Carnera. Poi Carnera forse è stato più personaggio, perché è stato più vicino a noi, perché è diventato campione del mondo, ma lui sicuramente è stato uno che poteva essere un campione del mondo. Tanto per darti un'idea, nel 1924 la rivista Tering cominciò le classifiche dei pugili e nei pesi massimi mise Spalla al 10º posto. è difficilissimo che gli americani possano mettere un pugile non americano nelle prime posizioni della classifica. Era difficile allora, è stato difficile dopo. Per dirne una, Monzon è sempre stato sottovalutato dagli americani perché non ha mai combattuto in America. Ecco, Spalla è riuscito a farsi considerare dagli americani. Questo per dirti quanto Spalla era un pugile di valore. Riccardo Signori, autore, lo ricordiamo, di Pugni su Pugni, edito da Wanda e-Publishing. Grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Arrivederci a tutti. Ecco, abbiamo parlato finora dell'Erminio Spalla pugile, ora una breve pausa, poi a Olimpia andremo alla scoperta dell'Erminio Spalla uomo e artista. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. Grande pugile, certo, ma Erminio Spalla, il primo italiano campione d'Europa nei pesi massimi nel maggio del 1923, ve lo ricordo, è stato altro e forse anche di più, oltre ad essere stato appunto un pur grandissimo pugile. Basti sentire questo frammento di Io suo padre, film del 1939 che rappresenterà il suo esordio come attore nel ruolo del Bonario, papà di un giovane e talentuoso pugile che perde la testa per una donna lasciva e a rivista. Hai fatto ginnastica? Sì. Nuoto? Sì. Benone, vai a vestire. Sì, ma prima devo offrire un aperitivo a quella signorina. Ai, ai, ai, ai, ai. Tu non devi bere aperitivi? Non dubitare, vuoi venire? No, vai, ti aspetto qua. Masetto! Oh, Masetto, è l'una. Non hai fame oggi? Cos'hai? Ho visto Radesio. Dove? Là, nel bar. Ha voluto fare dello spirito. Che ha detto? Che era Fortè. E perché? Scherzava, papà. Ah, scherzava. Ma lo faceva per impressionarti, per dirsi me. E noi lo metteremo fuori combattimento. Saranno più di una cinquantina i film in cui Spalla reciterà, anche con grandi maestri come De Sica e Dino Risi, come ricorda ancora oggi la figlia Gioietta. Sicuramente il primo è stato il Io suo padre, perché lui faceva la parte di un genitore che voleva istruire il figliolo per farlo diventare pugile, invece questo figliolo aveva altre mire, eccetera. E gli era piaciuto intanto perché era nuovo nell'ambiente, aveva fatto tante conoscenze e ne parlava spesso. Tra l'altro io ho qui a casa il libro, l'autrice del libro dal quale è stato tratto il film era appunto Io suo padre, era Alba De Cespedes. C'ho proprio il libro con l'autografo di questa De Cespedes dove si congratulava con mio padre perché diceva che aveva impersonificato esattamente quello che lei intendeva. Solo una e non la prima, quella del cinema, tra le tante passioni artistiche del pugile rinascimentale. Si sentiva cantante perché gli piaceva cantare, pittore ultimamente perché dipingeva quadri per mio marito, aveva un negozio di arredamento qui a San Giovanni e gli ordinava questi quadri che all'inizio sembrava uno scherzo, invece poi aveva preso talmente piede la cosa che non faceva tempo a finire i quadri che gliene ordinavano altri. Quindi diciamo che gli ultimi anni della sua vita lui li ha trascorsi dipingendo, che poi era praticamente il lavoro che lui aveva iniziato da bambino, perché è venuto a Milano il mio nonno, oltre a scuola, che a scuola lo mandava anche a Brera a prendere lezioni di ornato e di pittura. E quello è stato il suo primo lavoro. Ha cominciato a lavorare in una bottega artigiana come scultore e poi ha continuato più o meno. Poi è diventato pugile naturalmente, quindi la cosa ha cambiato strada come lavoro. Tanti gli aneddoti che riaffiorano dalla memoria della figlia. Non solo i ricordi riguardanti il grande campione, ma soprattutto quelli della vita quotidiana, delle piccole e grandi cose di ogni giorno. Lui era credente, ma poco osservante, e una cosa alla quale lui dava molto fastidio era sentir bestemmiare. E quindi se capitava che qualcuno davanti a lui si lasciasse andare con una bestemmia, erano problemi, perché lo costringeva a inginocchiarsi e dire tre volte sia lodato Gesù Cristo, e guai se non lo faceva, naturalmente. Avventuriero era Erminio, altrettanto dovevano essere i figli. Sentite come insegnò a nuotare a Gioietta. Non avevo ancora 4 anni, noi eravamo in Brasile, a Rio de Janeiro, e mi portava a largo con la barca, mi legava una corda, era me e mio fratello ha imparato subito ma era più grande, mi buttava in acqua e poi mi ripescava con la corda, io annaspavo nell'acqua fin tanto che un bel giorno mi sono retta a galla e è andato tutto bene, e infatti diciamo che ho imparato prima a nuotare e poi a camminare. Al Brasile poi era legato anche il ricordo più amaro della sua lunga carriera. Lui praticamente rispettava un po' tutti quanti. E l'unica cosa, il grande rimorso della sua vita, era stato l'incontro che lui aveva avuto con Benedito dos Santos, che lo chiamavano il giaguaro brasilero. Era un pugile nero, un fisico stupendo, e durante l'incontro, in un corpo a corpo non so come, è partito un pugno che ha paralizzato questo Benedito, mezza parte del corpo era rimasta lesa, tant'è vero che la borsa dell'incontro mio padre l'aveva devoluta a questo Benedito, perché aveva perso naturalmente l'incontro, e poi aveva organizzato altri combattimenti con la borsa a favore di questo, lui lo chiamava Diton, Benediton, come dicono i brasiliani, lo chiamava Diton, era una persona simpaticissima, però era rimasto offeso per tutto il resto della vita, tant'è vero che trascinava la gamba, si muoveva male. Comunque noi abbiamo avuto occasione di conoscerlo bene, sia quando siamo stati in Brasile nel 1934, dove poi è nato mio fratello Jarbas, e conoscevamo tutta la famiglia, noi giocavamo con i bambini di Benedito. All'Argentina invece riconducevano i motivi del suo ritiro. Si era dovuto ritirare perché aveva subito un intervento piuttosto pesante dopo l'incontro con Firpo in Argentina, e aveva avuto una lesione a un rene che poi nel giro di poco tempo gliel'avevano dovuto asportare. Quindi lui ha finito la carriera così, perché era rimasto con un rene solo e non aveva più l'integrità fisica per poter sostenere combattimenti. Fu anche combattente nelle due guerre, Erminio Spalla. Ardito nella prima, paracadutista nella seconda, a fianco della più illustre delle penne del giornalismo sportivo. Gianni Brera lui l'aveva conosciuto, a parte che erano oriundi tutti e due del Piemonte. E lui l'aveva conosciuto, era il suo tenente quando era paracadutista a Tarquinia, lì è nata l'amicizia più profonda, se vogliamo, e ha continuato a sentirlo, a frequentarsi, tant'è vero che Brera poi aveva scritto un bell'articolo su mio padre, su Repubblica, perché era uscita una enciclopedia dello sport e avevano saltato il nome di mio padre. E al che Brera ha esordito con questo articolo a tutta pagina, ora ve lo spiego io chi era quel diavolo di Erminio. E da lì raccontava tutte le varie fasi della vita di mio padre. Faccia tosta poi il buon Erminio. Sentite come accolse un giorno il grande campione Max Schmeling all'aeroporto di Barcellona. Erano a Barcellona, era stato invitato da Paulino Scudum a un incontro di vecchie glorie, e all'aeroporto erano andati a ricevere lui, Paulino e altra gente, Schmeling, se non che non c'era l'interprete in quel momento, erano un po' preoccupati, perché mio padre, che era una faccia tosta, tranquilli, vado io, infatti gli è andato incontro, conosceva abbastanza il tedesco, ma non per sostenere un dialogo molto lungo, e è andato incontro a Schmeling e gli ha raccontato, gli ha declamato la prima lezione che lui aveva imparato col sistema Linguafon, c'erano i dischi all'epoca, ed era una cosa buffissima, tant'è vero che Schmeling rideva, e tutti contenti perché dicevano: guarda Spalla com'è spiritoso, come ha saputo accogliere bene questo campione, insomma. Oggi la casa di Gioietta a Roma è una sorta di museo dei ricordi di Erminio Spalla, guantoni, giornali, cimeli. Su tutti una scultura che ancora oggi è nume tutelare di tutti gli Spalla. È il busto di mia madre con mia sorella, perché mi ricordo quando lui l'ha scolpito, faceva prima la forma in plastilina e poi si passava la forma in gesso, poi la fusione in bronzo, e adesso ce l'ho io, praticamente è passato attraverso casa di mia sorella che adesso non c'è più, E poi l'ho tenuto io perché è il più bel ricordo, è tutta la famiglia quasi, si può dire. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.